testolina del mondo. Quanti soldati ancora per le guerre dei magnati? Quante stragi di Stato ancora travestite da attentati? Quanti dollari bagnati di sangue? Quando la verità su Ustica? Quale futuro stai immaginando? Quale nuovo ordine del mondo stai architettando? Quartier generale del mondo selvaggio del capitale, che pena! Quartier generale del mondo della pena capitale! Quanti cermi sono?